Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è il 14 di ottobre, è la giornata mondiale della vista voluta dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB Italia Onlus e dall'OMS. È un appuntamento importante per tutti, che darà modo anche di poter effettuare visite e controlli gratuiti in tutta Italia, ma questo è un appuntamento particolarmente importante per noi. Radio 24 infatti è la radio ufficiale degli ipovedenti e dei non vedenti. Da anni, lo sapete bene, anch'io con la mia trasmissione cerco, come si dice, di alzare lo sguardo verso i bisogni di prevenzione e cura degli ipovedenti, e per questo oggi dedicherò l'intero programma al tema al quale è dedicata la giornata di quest'anno, ovvero prendersi cura della vista dei bambini, dei nostri bambini. Prevenire e anche risparmiare. Partiamo da un messaggio molto concreto e anche necessario in questo momento in cui tutti devono fare attenzione al contenimento dei costi in ogni settore, quello sanitario incluso. E tra l'altro la prevenzione paga sempre. Uno dei suoi problemi è che ha dei costi immediati a fronte di un risparmio che si renderà evidente a medio e lungo termine. Questo a volte porta i politici a trascurarne l'importanza e gli effetti. Invece oggi vogliamo ribadire quanto sia essenziale investire in prevenzione, e questo va detto soprattutto oggi che è la giornata mondiale della vista. Allora, vorrei farvi ascoltare dei dati. Abbiamo predisposto una scheda tratta da un report di ricerca condotta dalla LUIS Guido Carli e in particolare dal gruppo di ricerche industriali e finanziarie Fabio Gobbo. Ogni anno lo Stato italiano affronta in maniera diretta e indiretta per l'assistenza ai pazienti affetti dalle patologie oculari maggiormente invalidanti, oltre che per l'assistenza ai ciechi, una spesa stimata intorno ai 4,4 miliardi di euro annui, così suddivisa. Spesa sanitaria 2,8 miliardi, pensioni ed indennità 1 miliardo di euro, agevolazioni fiscali 144 milioni, istruzione e cultura 48 milioni, altre agevolazioni 319 milioni di euro. A questa spesa bisogna aggiungere il costo annuo della perdita di produttività per la mancata prevenzione, stimato intorno ai 2,1 miliardi di euro. L'adozione di politiche per la prevenzione della cecità consentirebbe allo Stato un risparmio medio di oltre il 20%, che varia a seconda della precocità della diagnosi e della cura. Il 20% di 4,4 miliardi è pari circa a 900 milioni di euro. In linea con me ho l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente della sezione italiana dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Avvocato, buongiorno, che piacere. Buongiorno, piacere è sempre nostro. Avvocato, la prevenzione servirebbe sia al malato, questo è fondamentale, ma anche alla comunità tutta, perché abbiamo visto, abbiamo sentito i dati e abbiamo visto quanto potrebbe essere risparmioso per lo Stato investire in prevenzioni. Ma quali sono le variabili che rendono la prevenzione, avvocato, davvero efficace? Voi che ci lavorate da anni. Ma anzitutto volevo dire che non è solo importante per lo Stato che può risparmiare molto, è importante per il cittadino che non diventa cieco, ma secondo me è anche importante per gli stessi ciechi che rimangono, ai quali lo Stato potrebbe destinare, va bene, maggiore attenzione e maggiore somme per la loro integrazione sociale, lavorativa, scolastica. Quindi è un beneficio trilaterale. Stato, cittadino che non diventa cieco e il cieco che può avere maggiore risorse da parte dello Stato. Quindi le variabili sono che noi col praticare la prevenzione della cecità in qualsiasi momento della vita, per i bambini, per i giovani, per gli anziani, va bene, possiamo migliorare la qualità della vita e nello stesso tempo, ripeto, avere un risparmio enorme per lo Stato e per la collettività tutta. Avvocato, lei ha citato i bambini e io vorrei soffermarmi su dei dati che la IAPB ha ottenuto con delle ricerche ripetute negli anni. Bisogna iniziare presto a controllare la visita dei nostri bambini. Al momento c'è ancora da lavorare, sentiamo i dati. Solo il 25% dei bambini viene sottoposto a visita oculistica entro i 3 anni di età e oltre il 30% arriva alla scuola primaria senza avere mai effettuato un controllo oculistico. Da controlli della IAPB effettuati su un campione di bambini tra i 3 e i 6 anni sono stati diagnosticati disturbi oculari sul 6% dei piccoli. La diagnosi e l'intervento tempestivo sono fondamentali. Avvocato, quindi tanto prima tanto meglio. Certamente, perché la prevenzione è fondamentale e si consiglierebbe addirittura fin dalla nascita. Noi su un campione di 2.080 bambini neonati abbiamo riscontrato che 47 di questi bambini avevano problemi alla vista, ma ancora il 25% di bambini che sono stati visitati da noi su un campione abbiamo riscontrato che avevano altri problemi visivi. Il 30% di questi bambini dei bambini invece non si è mai sottoposto ad una visita oculistica, quindi consigliamo che tutti i bambini vengano sempre sottoposti a visita oculistica dalla nascita, quando entrano nella scuola materna, nella scuola elementare e alla scuola media, perché fin quanto la visita avviene entro i 12-13 anni le patologie sono reversibili, dicono gli oculisti di tutto il mondo. Avvocato, allora rimanga con noi all'ascolto dell'intera puntata, perché credo che sarà felice di sentire come in modo chiaro e forte anche noi dai microfoni di Essere Benessere rinforzeremo il vostro messaggio, che è bello vederci bene. Grazie avvocato, noi ci sentiamo in chiusura di trasmissione. Grazie dottoressa. Grazie a lei e intanto vi voglio salutare il prossimo ospite già in linea con noi, il professor Paolo Emilio Bianchi. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore della clinica oculistica all'Università degli Studi di Pavia presso il Policlinico San Matteo. Professore, lo abbiamo sentito dalle parole dell'avvocato Castronovo, tanto prima tanto meglio, ma professore, quanto prima? Cioè, quali sono le età della prima infanzia in cui è fondamentale intervenire per prevenire eventuali deficit, danni, se non vere e proprie patologie della vista? Stiamo parlando di bambini che non hanno evidenziato alla nascita un problema grave o acuto. Cosa dovrebbe succedere allora, professore, a questi bambini nei mesi seguenti al parto? Ci sono degli screening della vista che le linee guida internazionali definiscono come utili o necessari? Dunque, certamente, premettiamo che i primi mesi di vita sono fondamentali per la maturazione e lo sviluppo della funzione visiva. Detto questo, in assenza di problematiche oggettivabili nelle primissime settimane di vita, io ritengo che la prima visita oftalmologica, se possibile in un bambino, vada fatta all'età di 6 mesi. Questo può stupire in qualche modo, ma l'età di 6 mesi è un'età ideale, perché a quest'età il bambino ha già maturato, anche se non consolidato, ma certamente maturato tutte le sue competenze visive elementari, che possono essere analizzate e studiate molto agevolmente, e in più a questa età il bambino è molto facilmente visitabile, a differenza di un bambino di un anno e mezzo, che è molto reattivo, molto... Quindi professore, 6 mesi, a noi come genitori sembrano piccoli, ma per voi invece oculisti è il momento migliore per effettuare una visita. Perché si visitano benissimo, danno delle risposte psicovisive che sono molto simili a quelle dell'adulto, non saranno stabilizzate tutto quello che si vuole, ma sono estremamente vari. Un bambino di 6 mesi deve dare delle risposte visive normali. Detto questo, io direi che la seconda tappa è inevitabile a 3 anni. Cioè, un bambino non deve superare i 3 anni di età senza aver fatto una seconda visita oftalmologica. Quindi 6 mesi e 3 anni. Ma professore, quali sono i fattori di rischio che una mamma e un papà devono conoscere per attivarsi sulla prevenzione? Io comincerei, se lei è d'accordo, dalla familiarità, che traduciamo con casi in famiglia di malattie oculari. È d'accordo? Certo, certamente. Ci sono, ma questa è un'ottima ragione per far vedere i bambini. Cioè, io ho avuto un problema nella mia famiglia, io, mia moglie, i miei parenti, gli zii, i nonni, e vado a vedere se questa patologia, che io so essere trasmissibile, è presente nel bambino. parliamo di cose semplici, senza andare in malattie strane e complesse, ma basta un vizio refrattivo importante, una miopia elevata, una differenza di refrazione tra un occhio e l'altro, la cataratta congenita per esempio, o glaucoma congenito, cioè patologie che devono essere, che possono essere indagate all'inizio dei primissimi mesi di vita e che possono essere corrette, che devono essere corrette nei primi mesi di vita. Ecco, queste patologie. Ci sono altre patologie più complesse, però molto più complesse, si può pensare anche a patologie neoplastiche per dire che possono essere trasmissibili, ma queste sono le patologie più comuni, lo strabismo, l'ambliopia, di vizi refrattivi, ecco, queste cose qua sono le cose che portano in generale il genitore a portare il bambino a una visita per vedere se non c'è stata una trasmissione del problema. Professor Bianchi, abbiamo dato un occhio alle famiglie, adesso diamo un occhio al nostro bambino. Ci aiuti ad osservarlo con occhio clinico. Cosa dobbiamo guardare? Come dobbiamo guardarlo negli occhi? E a che cosa dovremmo fare attenzione? Quale eventuale indicatore di rischio possibile? Osserviamolo. Certo, dunque noi potremmo vedere il problema sotto due aspetti, da un punto di vista comportamentale e da un punto di vista organico. Sì. Cioè, io voglio vedere, guardo il bambino, guardo gli occhi del mio bambino e vedo, cerco di capire se ci sono delle patologie, un occhio più grande dell'altro, una pupilla è più chiara dell'altra, una palpebra è più chiusa dell'altra, quindi c'è una caduta della palpebra, la palpebra non si apre in un occhio rispetto all'altro, un occhio è strabico rispetto all'altro, e poi c'è tutta una serie di altre problematiche legate al comportamento, cioè il bambino muove, si dirige lo sguardo verso gli stimoli che gli propongo in modo corretto, sto parlando già di bambini di 3, 4, 5 mesi, no? Cioè un bambino di 3, 4, 5 mesi che non segue completamente gli oggetti deve avere un problema, non è a posto, non è una cosa che va bene, quindi è necessario che il genitore stia attento a queste così normali atteggiamenti comportamentali alle risposte agli stimoli psicovisivi per rendersi conto se questo è normale o no. Molte volte i genitori fanno i confronti con gli altri figli. Dice, il primo figlio a 3-4 mesi già seguiva i miei occhi, la bocca, i movimenti oppure gli oggetti che gli proponevo, questo bambino non fa nulla, non segue nulla, oppure il mio figlio aveva gli occhietti aperti bene, questo ha un occhio più chiuso dell'altro, un occhio più grande. Ecco, questi sono, io metto tra virgolette, dettagli, segnali, campanellini che vanno riferiti al pediatra e all'oculista. Professor Bianchi, lei ha citato il colore della pupilla, mi sembra che sia un indicatore importante. Ma perché? Perché senza fare terrorismo, ma bisogna essere informati, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Certo, professore. E anche il pediatra ha questa, diciamo, questa osservazione, quest'arma in mano che si chiama riflesso rosso del fondo oculare, cioè se noi proiettiamo una luce sulla pupilla vediamo riflesso una luce rossa. Ora si chiama riflesso rosso e se questo riflesso rosso è assente oppure se nella pupilla c'è un riflesso bianco, quello che noi chiamiamo leucocoria, allora questo deve essere un segnale che porta a visita immediatamente, perché può sottendere semplicemente una cataratta congenita, ma sì, può sottendere anche qualcosa di molto più grave come un tumore endoculare, che è uno, il retinoblastoma è uno dei tumori più frequenti in età pediatrica. C'è un'altra parola chiave con cui i genitori dei bambini piccoli si possono scontrare con relativa frequenza, l'ambliopia. In gergo noi la chiamiamo occhio pigro, ma professor Bianchi, che cosa si nasconde dietro questo termine e soprattutto quali sono i segnali che possono creare un sospetto nel genitore? Ecco, l'ambliopia è una delle anomalie funzionali più frequenti in età pediatrica, che quelle che tra l'altro è l'anomalia che più si avvantaggia della prevenzione. Perché nella definizione di ambliopia vi è che si tratta di un difetto della funzione visiva monobilaterale che, se trattato tempestivamente e adeguatamente, può regredire e normalizzarsi. Quindi questo è il vero nocciolo della questione. Quella ambliopia è una patologia che, se trattata tempestivamente, può guarire. L'ambliopia che cos'è? L'occhio pigro, vuol dire occhio dal greco omblus, occhio ottuso, è un occhio che non vede bene. Possono essere anche ambliopie bilaterali che interessano tutte e due gli occhi per difetti bilaterali. sono ambliopie funzionali, vale a dire che se io le correggo, sì, se io intervengo con trattamenti tempestivi, posso normalizzare la funzione visiva. Quali sono i segnali che possono... ecco, questo è un punto. Le ambliopie monolaterali, se non sono accompagnate da grossi strabismi, per esempio evidenti, sì, possono non essere evidenziate. Ecco che qui ci vuole lo screening. Ecco perché ho detto che ci vuole la visita entro i 3 anni, perché un'ambliopia presa a 6 anni spesso non è più curabile. A 3 anni lo è, a 2 anni lo è, a 3 anni lo è, ma i finitori non è detto che siano in grado di depistare questa patologia, e anche i pediatri. I pediatri hanno tra le mani uno strumento per la diagnosi della stereopsi che non è un esame per l'ambliopia, quindi può il bambino ambliope sfuggire a questo test. Quindi i 6 mesi e i 3 anni sono 2 tappe obbligatorie, sono 2 controlli a distanza di tempo, quando il bambino è ancora piccolo, e la visita si può effettuare, non è certo una visita invasiva, il bambino non si spaventa, ma l'oculista ha tutti gli strumenti per intervenire e risolvere la situazione. Professor Bianchi, prima di salutarlo, un sms ce lo scrive Barbara da Varese: la sua bambina di 18 mesi, quando è in presenza della luce solare, ammicca dall'occhio destro, l'altro lo lascia aperto, ne chiude sempre uno. Potrebbe nascondere un problema? Sì, potrebbe nascondere diversi problemi. Potrebbe nascondere una cataratta, per esempio. Una cataratta, un opacamento del cristallino che con la luce crea questo fastidio di diffrazione della luce, quindi il bambino chiude la luce. Quindi anche se questa cataratta non genera una pupilla bianca, sì, però, perché magari è posteriore, non dà questo riflesso, però dà al bambino un grosso fastidio, quindi il bambino chiude la luce se è esposto al sole. Vi è un secondo disturbo che crea questa chiusura del sole, ed è uno strabismo divergente, è uno strabismo un po' particolare che ha questo segno che si chiama il segno del sole, sì, per cui il bambino quando esce il sole chiude l'occhio che tende a deviare in fuori, a divergere. E poi vi sono altre patologie posteriori al cristallino e dobbiamo ritornare. Ecco, questo il messaggio di Barbara, che io ringrazio, ci permette di mandare un messaggio, no, agli ascoltatori. Osserviamo i nostri bambini e tutte quelle senza allarmarci, ma tutti quelli che possono sembrarci dei comportamenti anomali, segnaliamoli al pediatra e all'oculista. Ricordiamo, come ha sottolineato nel corso della sua intervista il professor Bianchi, queste 2 date fondamentali, 2 tappe, 6 mesi, 3 anni. Professor Bianchi, noi la salutiamo e cresciamo, perché entreremo tra poco in una scuola elementare, bambini alle prese con quaderni, compiti, lavagne. Professor Bianchi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie infinite, grazie. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi il meteo, poi di nuovo insieme, giornata mondiale della vista, ci occupiamo della vista dei nostri bambini, quindi io vi aspetto. 14 ottobre, oggi si celebra la giornata mondiale della vista voluta dalla IAPB e dall'OMS. In linea con noi un altro ospite che ci accompagna in una classe elementare, il professor Filippo Cruciani, oculista, ricercatore al Dipartimento di Oftalmologia dell'Università La Sapienza di Roma e coordinatore scientifico del Polo Nazionale di Prevenzione e Riabilitazione Visiva. Professore, buongiorno. Buongiorno. Con tutte queste cariche io la riporto indietro nel tempo e entriamo in una scuola elementare. Tante volte sono proprio le maestre che si rendono conto da piccoli particolari, la postura, la disattenzione del bambino, l'inclinazione del capo, che c'è qualcosa che non va. Ma naturalmente anche i genitori da casa possono notare tante piccole cose nelle abitudini del proprio bambino, sulle quali noi invitiamo a prestare particolarmente attenzione. Oggi diamo informazioni e facciamo una sorta di ripasso. Quindi, professore, ritorniamo a scuola. Se lei entrasse in una classe elementare, a quali dettagli farebbe particolare attenzione? Ma la prima cosa che osserverei è la postura che i vari bambini assumono mentre sono seduti sul banco, mentre guardano la lavagna, ma soprattutto mentre scrivono e leggono. Se un bambino ha un vizio di refrazione, tende spesso o a avvicinarsi troppo al libro oppure tende ad assumere posizioni un po' viziate del capo, e se c'è un po' di miopia, chiaramente quando guarda la lavagna tende addirittura ad alzarsi perché vede sfocato da lontano. Noi abbiamo dei consigli per i genitori all'ascolto, rapidi, efficaci, facili da seguire, sentiamoli. Per la scrittura e la lettura è importante mantenere una distanza di almeno 30 cm dal foglio, tenere la schiena dritta e impugnare bene la penna. Per l'illuminazione è utile tenere sempre ben illuminata la stanza dove ci troviamo, anche quando nostro figlio gioca o studia. Quando fa i compiti è bene utilizzare anche una lampada da tavolo, così da illuminare bene il libro o il quaderno. Per il computer è sufficiente che lo schermo si trovi almeno a un metro dalla finestra e dai muri della stanza. Per non stancare troppo gli occhi, è necessario fare ogni tanto delle pause. I consigli che abbiamo appena ascoltati sono tratti dall'opuscolo informativo "Che bello vederci bene", è proprio vero, a cura dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Potete scaricarlo sul sito e questi opuscoli verranno distribuiti il 14 e il 17 ottobre, quando saranno disponibili a tutti in parchi, giardini e piazze di molte città italiane dei controlli gratuiti. Professor Cruciani, anche i bambini delle classi elementari vanno sottoposti a dei controlli. Con il professor Bianchi, per i bambini piccoli abbiamo sottolineato due dati importanti, i 6 mesi e i 3 anni, ma spesso i problemi insorgono proprio durante l'età del bambino, l'età scolare del bambino, proprio perché il bambino si affatica di più. In questo caso anche un controllo oculistico? Sì, il controllo oculistico durante la scuola dell'obbligo è spesso importante e noi lo consigliamo, perché in questa fase il bambino non solo ha bisogno di una sufficiente quantità di vista, ma di un'ottima qualità di vista, quindi anche difetti, piccoli astigmatismi che di per sé non creerebbero grossi problemi nel momento in cui la vista viene fortemente stimolata, può creare delle difficoltà al bambino, al suo rendimento. Oggi noi dobbiamo garantire al bambino non solo una piena quantità di vista, ma un'ottima qualità di vista. Ecco, questo è molto importante, proprio perché l'organo visivo è continuamente e costantemente tenuto sotto pressione. Professore, le leggo un sms appena arrivato. Carmela, mamma di Lucia, 14 anni. Da quando aveva 7 anni mia figlia non fa più un controllo della vista. Ha sempre visto bene, però ora che va alle superiori studia molte più ore che in passato e anche dopo cena. La sua vista ne può risentire in adolescenza con la crescita e lo sviluppo? La vista dei nostri figli è più a rischio, professor Cruciani? Ma guardi, io vorrei fare innanzitutto una premessa nel dire che l'impegno visivo nello studio non è assolutamente un fatto negativo né un fattore che possa creare un rischio. Questa non doveva dirlo, perché tante volte noi ragazzi dicono: mamma, chiudo i libri perché proprio non ce la faccio più, mi sento gli occhi a pezzi. Invece no, lo studio non rovina la vista. Lo studio non rovina la vista, lo studio effettivamente crea una situazione di stanchezza, quindi è importante saper gestire i tempi dello studio, però è importante garantire alcune cose di fondo come una buona illuminazione, certo, il rispetto di una determinata distanza, delle pause che vanno sicuramente fatte e via dicendo. L'unico problema, ma qui c'è un po' di discussione in merito, è che un'attività protratta da vicino, protratta per molto tempo, possa determinare una miopia. Anche se non ci sono studi che lo dimostrano al 100%, però tutti sappiamo che effettivamente lo studente tende verso una miopizzazione dell'occhio. Ora, ai fini preventivi è appunto importante seguire delle regole principali, ecco, quella di non avvicinarsi molto ai libri, di far spaziare anche l'occhio mentre studia, quindi cercare di guardare anche in lontananza, fare delle pause e soprattutto avere un'ottima illuminazione sia dell'ambiente sia del libro che si sta leggendo. Professor Cruciani, quindi studenti, studiate pure, fate delle pause, una specie di stretching è quello che consiglia il professor Cruciani, e con stanze e tavoli di lavoro opportunamente adeguatamente illuminati. Professor Cruciani, grazie per essere stato con noi, la saluto, buona giornata. La ringrazio a lei e a tutti i radioascoltatori. E ora andiamo a salutare un nuovo ospite della nostra trasmissione, che tra l'altro è anche un grande amico, considerato che lo abbiamo avuto con noi già in molte altre occasioni. Saluto il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Professore, bentornato e grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei Nicoletta. Professore, con lei abbiamo parlato tante volte di dislessia. Quanto è importante una buona vista, e a lei che si occupa così tanto e direi così bene di dislessia, quante volte è capitato di trovare le strade della dislessia e quelle della cattiva visione incrociate nella storia clinica di un piccolo paziente? Beh, tante volte, perché la vista è una porta è la porta di ingresso nel processo di lettura, quindi è chiaro che avere una buona visione è il prerequisito fondamentale. Ora, spesso, soprattutto nel campo della ricerca clinica, è stato trascurato l'apporto degli oculisti e dello studio della visione, perché ci si è limitati, per esempio, a valutare l'acuità visiva, cioè i famosi decimi dell'occhio, sì, diciamo, no? Quindi è chiaro che l'acuità visiva ha una sua influenza, perché al di sotto di una certa acuità visiva, per esempio al di sotto dei 5 decimi di visione, viene rallentata la lettura perché c'è una difficoltà a decifrare le lettere. Tuttavia ci sono molti altri aspetti importanti che in questi anni sono emersi come fattori concomitanti nel disturbo di lettura, che sono per esempio più aspetti funzionali più che di acuità visiva, cioè per esempio l'inseguimento visivo, la capacità di accomodazione dell'occhio, quindi sì, aumento o della distanza, il contrasto, la capacità di adattamento al contrasto, la capacità di adattamento alla grandezza del carattere, il cosiddetto affollamento visivo, che non è la stessa cosa leggere una parola isolata o leggere una parola dentro un testo, perché le pensi che quando noi leggiamo un libro, naturalmente, è come se noi muovessimo lateralmente lungo la riga una sorta di spotlight, come quelli del teatro che inseguono l'attore. Sì. Ora, questa capacità di dirigere in maniera coerente, fluente, fluida, non è così facile. Ovviamente, ripeto, non determina la dislessia, questo lo sanno bene anche gli oculisti. Tuttavia, la buona visione è un aspetto fondamentale che spiega in parte le difficoltà di lettura del bambino, e quindi che va assolutamente controllata e corretta. L'importanza di una buona visione, l'importanza di una grandezza del carattere regolata, l'importanza, per esempio, quello che le vecchie maestre dicevano: tenere il dito sulla riga. Ma non me lo dica. Ecco, ovviamente è utile, facilita questa attività di accompagnamento di quello che ho detto prima, cioè inseguire l'attore lungo il suo spostamento. Quindi osservate anche se il vostro bambino perde la riga. Intanto noi dedicheremo una puntata, naturalmente, insieme al professor Stella sulla dislessia. Professore, la saluto e ci risentiamo presto. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, poi torniamo subito dopo insieme. A tra poco, vi aspetto. E siamo tornati insieme, una puntata tutta dedicata alla vista dei nostri bambini, ai controlli da fare, ai segnali da non sottovalutare. Ci siamo occupati dei bambini di pochi mesi, dei bambini in età scolare, ma io voglio fare un passo indietro ed occuparci dei prematuri, perché uno dei problemi maggiormente correlati alla nascita prematura di un neonato è strettamente associato alle complicanze che si possono verificare nell'ambito della capacità visiva. C'è una sigla che racconta tutto questo, è ROP, e in linea con noi abbiamo il professor Alfredo Reibaldi, direttore della clinica oculistica dell'Università di Catania e direttore scientifico del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti. Professor Reibaldi, grazie per essere con noi. Ciao. Professore, una sigla, ROP, che cosa si nasconde dietro a queste tre lettere? purtroppo già i bambini che nascono prematuri hanno alle spalle una serie di problematiche che i genitori si sono portati avanti e quindi sono bambini da attenzionare in ogni modo. La vista può essere interessata perché se il bambino nasce prematuro, e prematuro si intende che nasca prima dei 9 mesi, che cosa succede? Che lo sviluppo visivo, soprattutto la retina, ha una sua evoluzione che ha il termine ai 9 mesi. Se io invece ho un bambino che per un motivo o per un altro nasce per esempio a 7 mesi, chiaramente lo sviluppo della retina si arresterà ai 7 mesi, quindi si creeranno le premesse, per fortuna non sempre poi si realizzino, di danno alla retina. Quindi da questo scaturisce che in tutte le divisioni di terapia intensiva neonatale, cioè dove sono allocati i bambini prematuri, ci deve essere un oculista che poi non è un oculista normale, deve essere un oculista abituato a visitare questi bambini, che non vengono portati al tuo studio con tutte le attrezzature possibili e immaginabili, ma sono in un'incubatrice, quindi vanno visti con attrezzature particolari e soprattutto con persone particolarmente addestrate a questo. Perché fatta la diagnosi si può procedere alla terapia? Il bambino prematuro al 90% fa una retinopatia del prematuro, però ormai la letteratura è concorde in questo. Il primo stadio, il secondo stadio, adesso non stiamo a sottolineare, no, certo, sulle diciamo gli aspetti definizioni e gli aspetti di fatto tecnici. Sono malattie, sono situazioni che sono assolutamente reversibili, cioè dopo chiaramente vanno sempre controllati periodicamente, ogni settimana, magari anche meno. Sì, però il problema rientra. Ritornano indietro. Ci sono invece alcuni, per fortuna una percentuale più bassa, ma quelli che nascono molto prematuri e quelli che sono molto sottobesi sono molto più a rischio, in cui si sviluppa questa benedetta retinopatia del prematuro, che consiste di fatto in che cosa? In una mancata vascolarizzazione di una parte più o meno ampia della retina. Questo fatto, la mancata vascolarizzazione, provoca una serie di sequele che poi, se non trattate, porteranno a dei danni assolutamente irreversibili. Quindi una volta che ci si è accertati che esiste una situazione di non ritorno, certo, è fondamentale che l'oculista intervenga e è universalmente riconosciuto in questo caso un trattamento che viene effettuato con un laser che è montato su uno strumento particolare che si chiama oftalmoscopio, che di fatto fa un danno alla retina del bambino, sì, ma questo danno è certamente 100 milioni di volte inferiore a quello che certamente, fatalmente si creerebbe se noi non lo trattassimo. Professor Reibaldi, quindi un danno a fin di bene, si potrebbe dire. Purtroppo, c'è da dire anche questo, non sempre, ma in una percentuale elevatissima, non sempre, anche questo trattamento non basta e allora poi bisogna fare delle ulteriori, delle terapie più aggressive, che però sono sempre molto meno rispettose dell'anatomia, della fisiologia del bambino, e quindi chiaramente noi a volte riusciamo ad ottenere una situazione anatomicamente accettabile, sì, ma funzionalmente molto scadente. Professor Reibaldi, io la ringrazio per essere stato con noi, per essere venuto insieme a noi a così celebrare la giornata mondiale della vista, e con lei ci siamo occupati anche dei prematuri. La ringrazio, le auguro una buona giornata. A presto, arrivederci. Ma in occasione della giornata mondiale della vista è importante parlare anche di ricerca. In linea con noi il professor Alberto Auricchio, associato di genetica medica all'Università Federico II di Napoli e ricercatore presso il TIGEM di Napoli. Professore, bentornato. Grazie a voi, buongiorno. Professore, che cosa sta facendo la ricerca per le malattie ereditarie dell'occhio che causano cecità nei bambini e anche negli adulti? C'è molta ricerca intorno alle malattie ereditarie dell'occhio. Volendo sintetizzare, ci sono due filoni che stanno avendo importanti risultati. Uno riguarda la possibilità di definire il gene che causa la malattia in un paziente con una malattia oculare. Questo rimane un grosso problema per questo gruppo di malattie, ma oggi grazie a delle tecniche di diagnosi molecolare molto avanzate come il Next Generation Sequencing ci si avvicina alla definizione personale della mutazione che causa la malattia nel singolo paziente. Questo è ancora ad uno stadio, diciamo, sperimentale, ma Penso che nei prossimi 2 o 3 anni questo tipo di tecnologia aiuterà un grosso numero di pazienti a definire la causa della loro malattia. Professore, ma oltre alla diagnosi, per quanto riguarda la terapia delle malattie ereditarie, su che cosa sta lavorando la ricerca? Quali speranze, insomma, possiamo dare a chi è affetto da un problema di questa natura? Ma le malattie ereditarie della retina sono storicamente considerate malattie intrattabili. Questa, diciamo, visione sta cambiando. Una delle frontiere delle terapie sperimentali, che è la terapia genica, sta raggiungendo degli importanti risultati proprio nel campo delle malattie ereditarie della retina. Voglio giusto ricordare una sperimentazione importante che ci vede protagonisti presso il TGM di Napoli in una forma ereditaria di cecità congenita, in cui dei pazienti affetti da questa forma hanno in parte recuperato la funzionalità visiva proprio grazie alla terapia genica. Ma professore Auricchio, oltre alla terapia genica sentiamo spesso parlare dell'utilizzo di cellule staminali. Anche in questo caso, professore Auricchio, ci dà il punto della situazione e anche ci fa intravedere quali prospettive concrete potrebbero derivarne nel breve, nel medio, nel lungo termine? Le cellule staminali per la terapia delle malattie retiniche sono forse un passo più indietro rispetto alla terapia genica da un punto di vista applicativo. Sì. Tuttavia, però, proprio nel campo, diciamo, trapianto di queste cellule nella retina sono state fatte degli importanti scoperte recentemente in modelli animali di malattie retiniche, per cui ci si avvicina sempre di più alla possibilità di utilizzare cellule staminali per appunto la terapia per la rigenerazione fondamentalmente di fotorecettori nella retina. Professore, io la saluto, la ringrazio, lei riesce sempre a spiegarci in modo molto chiaro delle cose molto difficili che però ci fanno credere nella ricerca e anche se non siamo degli addetti ai lavori capiamo che state lavorando per noi. Grazie professor Auricchio. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie, arrivederla. E prima di salutarci salutiamo l'avvocato Giuseppe Castronovo che è rimasto in ascolto della nostra trasmissione perché avvocato buongiorno, ribongiorno, eccoci. Buongiorno. Avvocato, noi dobbiamo lasciarci, ma come si fa tra amici? Ci lasciamo dandoci un appuntamento. L'appuntamento è per tutti i bambini, perché dal 14 al 17 di questo mese, presso tutti i parchi di 50 città italiane, io consiglio, faccio appello a tutti i genitori di portare i bambini, perché oltre a ricevere eventualmente delle visite attraverso le nostre unità mobili, riceveranno un bellissimo aquilone, con il quale aquilone i bambini possono giocare, e dove c'è scritto la prevenzione della cecità. Con la prevenzione si salva la vista, e la vista di voi tutti è un bene, lo continuo a ripetere, meraviglioso, che si deve sempre conservare. Avvocato, buona giornata e grazie per essere stato con noi. Grazie, dottore. E per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone. Sul nostro sito il consiglio quotidiano per la riduzione di sale, un pizzico in meno, tanta salute in più. Buona giornata da Nicoletta Carbone, a domani.